Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Niente sesso, siamo in crisi per la crisi. Stress, incertezza e paura del futuro si trasferiscono anche sotto le lenzuola e più le preoccupazioni aumentano, più calano la libido e il piacere di fare l'amore. Dopo aver alleggerito i nostri portafogli e cancellato i nostri sogni, la crisi sembra mettere in serio pericolo anche la vita e la relazione di coppia. Alcune ricerche hanno fotografato gli effetti. Ne parliamo con la dottoressa Giovanna Luini, che è in linea con noi, medico responsabile della comunicazione scientifica di IEO. Buongiorno dottoressa, bentornata. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. In effetti la crisi sembra colpire molto le relazioni, il che è strano perché in teoria dovremmo cercare sollievo nella relazione di coppia, però esistono alcuni studi, uno americano, un altro greco, e la Grecia come sapete è molto colpita dalla crisi, che dicono che esiste un calo molto evidente nei matrimoni, nei fidanzamenti, ma soprattutto nel desiderio sessuale. A quanto pare il desiderio sessuale è molto sensibile al nostro stato di stress. Ciò che succede durante lo stress o durante la depressione, e la crisi è tipicamente una fase depressiva, è che anche il desiderio sessuale cala. Per dare quel pizzico di speranza, però, vorrei dire che questi due studi che hanno riguardato e riguardano tuttora, nel caso di quello greco che è ancora attivo, migliaia di persone, c'è un dato molto curioso. A quanto pare diminuisce il desiderio sessuale, ma aumentano i tradimenti. Che sia forse il segno che non è il sesso che cala, ma forse la voglia di trasgredire e di avere un'emozione un po' più forte? Una domanda che rivolgiamo naturalmente anche ai nostri ascoltatori. Grazie dottoressa Luini per essere stata con noi, buonissima giornata. Anche a voi, buongiorno. Credo che ognuno di voi sia stato avvertito che qui si svolgerà un seminario di educazione sessuale, un comune scambio di energie, diciamo una serata di esperienze collettive al fine di renderci conto a che punto siamo oggi con il sesso e che cosa possiamo aspettarci dal sesso. Intanto, quanti di voi sono soddisfatti della propria sessualità? Spero sia senso del pudore. La crisi è entrata anche nell'intimità della vostra coppia, è entrata in camera da letto, 800 24 00 24, se volete parlarne con noi, come sempre i messaggi al 349 238 6666. Potete seguirci su Facebook e su Twitter. L'hashtag di oggi, che vuole essere anche un augurio, è Felici in Amore. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il professor Iannini, docente di sessuologia all'Università dell'Aquila. Buongiorno, bentornato. E la professoressa Antonella Bertozzi, direttore dell'unità operativa dipartimentale diagnostica andrologica della riproduzione e della sessualità al Santa Chiara di Pisa. Buongiorno anche a lei, professoressa. Buongiorno a lei, dottoressa. Professor Iannini, diciamo che lo stress non è amico dell'eros, ma non è solo un modo di dire, c'è anche una spiegazione fisiologica. Sì, no, c'è una spiegazione proprio adattativa, nel senso che quando l'ambiente è ostile, e questa è la traduzione della parola stress, sì. Cioè stress, questo vuol dire ambiente che in qualche maniera ci lancia dei segnali che le cose non vanno bene, il nostro organismo, ma non solamente il nostro, anche quello di tutti gli animali, sostanzialmente dispone di dispositivi ormonali, di interruttori ormonali che sono capaci di switchare, cioè di mandare l'energia, le risorse in qualche maniera in un altrove rispetto al sesso, cioè ci portano a rinunciare alla riproduzione. Perché? Perché riproduzione e sesso non sono molto convenienti quando intorno a noi c'è carestia, c'è stress, c'è guaio, c'è problema. Ecco, allora disponiamo di questi meccanismi che, come una specie di interruttore, no? Come un appunto uno switch, portano l'energia o le risorse in un'altra direzione, non sessuale. la durata dell'atto sessuale varia a seconda della capacità della donna dell'uomo, anche di ritardo, perché non sempre l'uomo ha una tendenza a risolvere l'atto sessuale subito dopo, non sempre per carità, ma non appena diremo, e comunque molto prima che la donna riesca a dire e che, ecco, dunque si definiscono normali gli atti in cui la donna ha il tempo di accorgersi, gli atti invece superiori a tale durata si dicono atti impuri, gli atti invece inferiori a tale durata si dicono atti coniugali per la donna, sveltine per l'uomo. Straordinaria, merope, generosa, professoressa Bertozzi. Allora, lo stress cambia, ci cambia, cambia la nostra vita, anche la nostra vita sessuale, e questo è fonte di malessere. Sappiamo infatti che la salute sessuale è una spia della salute generale, questo è un dato importante che non va trascurato, a cui però ne vorrei aggiungere un altro, che viene evidenziato da una ricerca effettuata presso l'Università di Harvard, che ci dice che chi ha un'attività sessuale regolare, non dice se è soddisfacente, ma me lo auguro, vive 2 anni e mezzo in più. Quindi fare l'amore fa bene all'amore, alla salute, e sembrerebbe allungare la vita. Ma di questi tempi, professoressa, anche l'amore diventa molto difficile. Fare l'amore diventa un problema. Questo senz'altro, professore Iannini ha spiegato perfettamente come l'organismo si modifica in corso di cause, diciamo, di stress esterno. Si modifica anche per cause organiche, fra il resto le due cose spesso sono molto collegate fra di loro. Per quello che riguarda, per esempio, l'erezione, il lavoro a cui faceva riferimento lei, dottoressa, è un lavoro estremamente interessante e secondo me segnala anche un'altra cosa, e cioè che chi fa bene all'amore è sano, perché il fenomeno dell'erezione, che è un fenomeno estremamente complesso, è un po' una cartina di tornasole, diciamo, della buona salute dell'organismo, in particolare di un tessuto specifico che riveste i corpi cavernosi del pene, ma riveste anche il cuore e tutto l'apparato vascolare, quindi il cuore, il cervello, i vasi arteriosi, eccetera. Quindi chi ha una buona funzionalità erettiva sicuramente ha una buona funzionalità anche cardiocircolatoria. Ecco perché diagnosticare rapidamente un problema di erezione vuol dire anche fare una buona politica di prevenzione capillare. Certo. Viene calcolato che più o meno col deficit erettivo precede di 3 anni un problema vascolare. Professore Iannini, io vorrei però coinvolgere anche le donne, perché anche la crisi cambia anche naturalmente l'universo femminile, il desiderio di fare l'amore di una donna, la libido. Quali sono gli indicatori? Come la professoressa Bertozzi sottolineava, fare l'amore, chi fa l'amore è un individuo sano. Come si può raccontare questo nella donna? Ma è molto semplice, innanzitutto recuperando il concetto di coppia, che è l'attore principale ovviamente, cioè il numero minimo per l'attività sessuale è 2, diciamo da 2 in su, ma il minimo è appunto 2, quindi recuperando la dimensione di coppia come bersaglio della situazione negativa in qualche modo. E allora mi viene in mente un altro lavoro che fu pubblicato in realtà qualche anno fa, 5-6 anni fa, sul New England Journal of Medicine, che era abbastanza premonitore di quello che poi sarebbe successo. È un lavoro fatto negli Stati Uniti a New York, in cui si vedeva che le coppie che fanno più sesso, soprattutto andando avanti con l'età, cioè quando diventa appunto più critico, sono coppie, come diceva giustamente la professoressa Bertozzi, più sane, e questo è un dato che ritorna continuamente, ma sono coppie, e questo ci deve far riflettere in questo momento, in un momento di crisi, più ricche, nel senso che c'è una correlazione sinistra, devo dire, tra la salute generale, tra la salute sessuale e la salute economica in qualche maniera, e ci riporta al suo discorso iniziale, cioè il tema appunto della crisi e come questa impatti sulla funzione sessuale. Lei mi chiede delle donne, beh, le donne è ovvio che hanno, come dire, una situazione anatomica e fisiologica che permette loro un in qualche modo un certo automatismo nell'entrare nella fase di eccitazione che al maschio è negato, cioè in altre parole il maschio o ha una condizione di desiderio, di accettazione, di piacere nello stare nella dimensione sessuale, o altrimenti la erezione non si verifica. Invece per la donna questo limite biologico non è così, non ha lo stesso livello. Quindi dove è colpita maggiormente la donna? Lo stavo accennando, nella fase di desiderio, che appunto si riduce nelle condizioni di stress, entrano in gioco ormoni come l'adrenalina, certo, come la endorfina, come lo stesso cortisolo, che svolgono un ruolo non indifferente in questi meccanismi, e poi un'altra fase che è particolarmente, come dire, sensibile, è una catena tornasole importantissima della risposta allo stress nella donna, che è la fase orgasmica, che è la fase del piacere, che viene a essere già, come dire, una cosa complicata in qualche modo, non è una cosa così scontata come nel maschio, ecco, diciamo più esattamente, ma è una cosa sulla quale discutere nel momento in cui si mette in atto l'atto sessuale stesso, ma ecco, certamente questa dimensione di orgasmo è quella che è di piacere, che è quella che più facilmente viene colpita in questa situazione appunto di stress, di ambiente ostile, ecco, diciamo. Allora, felici in amore, l'hashtag di oggi, ma è anche l'invito a raccontarvi all'800240024. Felicità in amore significa relazione, significa intesa, significa anche salute generale. Andiamo a Bergamo, ci chiama Antonio all'800240024, benvenuto e buongiorno. Sì, buongiorno. Ecco, volevo dire la mia sull'argomento che sto ascoltando da voi in radio, appunto, e sono convinto anch'io che sia un motivo, sicuramente la crisi, che la crisi che viviamo di questi tempi sia uno degli elementi sicuramente scatenanti a trasgredire, a tradire di più, proprio perché viviamo un momento di grande insicurezza, di grande incertezza, al che si cerca di evadere in qualche maniera anche, purtroppo poi andandoci di mezzo anche il discorso di coppia, di certo, di amore, insomma. Io sono abbastanza convinto che questo. Lei dice che qui, lei ha raccolto lo stimolo della dottoressa Luini riguardo al tradimento, ma io credo che il problema, professore Iannini, un problema serio, è che anche all'interno della coppia di problemi sessuali se ne parli poco. No, questo è una crociata, diciamo così, ecco, che facciamo avanti da tantissimo tempo, qualche risultato abbiamo cominciato ad averlo, ma sono ancora scarsi, e ha perfettamente ragione, il silenzio sessuale si ripercuote in un silenzio verbale, nel senso che quella coppia che non è capace di utilizzare il linguaggio del sesso a letto, molto spesso è altrettanto incapace a parlarne, entra in una sorta di mutismo patologico che è veramente molto difficile spezzare. Perché? Per un motivo molto semplice, perché ahimè la funzione sessuale si porta indietro dei significati simbolici che sono assolutamente evidenti e importantissimi, che fanno pensare erroneamente alla coppia che se si mette in crisi attraverso la discussione, sì, perché già la discussione è un elemento, come dire, critico, no? Si discute per questo, se si mette in crisi questa dimensione sessuale la coppia intera ne può venir meno, e in effetti questo accade. Certamente però le coppie di cui stiamo parlando, queste di cui le coppie che tacciono, sono delle coppie che stanno insieme, mm-hmm, nonostante il silenzio sessuale, in un assordante silenzio verbale, nel senso che appunto non viene verbalizzato, non se ne parla, e quindi a maggior ragione si è muti di fronte a quello che poi è il riferimento fondamentale, non è solamente parlarne nella coppia, ma andare insieme a parlarne con lo specialista, perché poi alla fine questo è il passo che bisogna fare per uscire da questo silenzio. Ma a fotografare la difficoltà degli uomini a raccontarsi e a chiedere aiuto ci ha pensato una ricerca condotta da Eurisco, e in studio con me ho il piacere di avere la dottoressa Isabella Cecchini, direttrice del Dipartimento Ricerche sulla Salute di Eurisco. Buongiorno, grazie per essere qui con me, che mi tiene un po' di compagnia. Allora, dottoressa, il problema è serio, parliamone oggi. Sì, buongiorno a tutti. Il problema è importante, è un problema anche molto frequente. Un uomo su quattro ci dice di soffrire di eiaculazione precoce, in particolare parlando di questo disturbo. La sofferenza si concentra peraltro in una fascia di età anche molto importante, quella fra i 35 e i 45 anni. Un terzo dei sofferenti ha tra i 35 e i 45 anni, quindi un momento della vita importante, molto attivo, un momento dove la felicità è importante, non che non lo sia nelle altre fasce di età, però di fatto questo è sicuramente un momento della vita particolare ed è importante, soprattutto sul piano delle relazioni di coppia. La cosa interessante che emerge dalla nostra ricerca riguarda il vissuto degli uomini che ne soffrono. In realtà sono molto consapevoli del problema, sono consapevoli soprattutto del grande impatto che questo problema ha sulla relazione di coppia e sulla soddisfazione della propria compagna. Tre quarti dei nostri uomini che hanno dichiarato di soffrire di eiaculazione precoce ci dicono che il sentimento più importante di cui loro soffrono e che sentono è il dispiacere per non poter soddisfare la propria partner. Quindi c'è la consapevolezza proprio dell'importanza della relazione della coppia e di quanto la soddisfazione sessuale sia importante in amore. Il grosso problema che emerge riguarda la difficoltà, la resistenza a fare qualcosa per risolvere il problema. Metà delle persone non fa assolutamente nulla. E questo direi rassegnato. Rassegnati, non ne parlano con nessuno, quindi questo tema anche del silenzio di coppia, ma del silenzio in generale su questo problema, io credo che sia importante sottolinearlo. Solo un quarto delle persone che ne soffrono ne ha parlato con un medico, addirittura solo il 5% ha preso dei farmaci prescritti dal medico per curare il problema. Bisognerebbe chiedersi perché non se ne parla, perché non ci si rivolge a un medico. Perché noi possiamo parlarne oggi. 800 24 00 24, potete come sempre mandarci anche una mail a esserebenessere@radio24.it oppure seguirci su Facebook e su Twitter. Questo Marcus Quirrell ha studiato gli uomini in età di Chupa Dance, no? Sì, sì. L'età della tromboiserie, diciamo. Sì, in età... L'età tua, del Rapagnau ancora. Sì, va bene. E ha scoperto una cosa molto interessante. Ha scoperto che un maschio su tre è un razzo, cioè un po' il problema dell'alta velocità, che nelle ferrovie è molto richiesta, però tra le lenzuola meno diciamo. Capito, ma connessione allora veloce. Per fare un esempio, sì, sempre ma non facciamo l'esempio, ogni due intercity passa un TGV a parte quelli che sono sul binario morto come faccio, insomma. E parliamo di velocità con un campione di Formula 1 che è diventato testimonial della campagna promossa dalla European Society for Sexual Medicine, che ha proprio come obiettivo quello di sensibilizzare gli uomini a chiedere aiuto, a lavorare in team per superare il problema. In linea con noi abbiamo il piacere di avere Jacques Villeneuve. Ciao Jacques. Ciao, buongiorno. Grazie per essere con noi. Tu, dopo aver fatto della velocità la tua fortuna, hai accettato di parlare agli uomini di un altro tipo di velocità per mandare un messaggio molto chiaro legato al momento. Ci racconti? Sì. Per me, quando mi hanno parlato di questo, della campagna Not Just a Moment, mi è sembrata importante in parlare, perché è un problema vero che per tanti uomini, anche se amici ne parlano poco, ce ne sono alcuni che ne hanno parlato senza vergogna, però è vero che ce ne sono pochi che ne parlano, il problema è vero, e questo l'ho visto molto a fine negli ultimi anni di scuola, per esempio, dove diventa una cosa importante di avere questo potere, e che tutti parlano come sono nell'altra estrema, e lì si capisce che qualcuno col problema può creare dei danni psicologici tutta la vita e anche dei problemi nelle coppie, quindi per me era una cosa logica di andare avanti con la campagna. Per aiutare gli uomini a rompere questo silenzio, a cui faceva riferimento il professor Iannini, che si ripercuote anche sulla salute psicologica della persona e della coppia. Già che il momento giusto quindi non è un momento basta, è una condizione che si guadagna proprio con l'impegno, la collaborazione di più persone, il partner prima di tutto e anche lo specialista. Sì, è un po' come succede nella Formula 1, esatto. C'è un team che lavora. Non è una cosa che puoi, con cui puoi andare avanti da solo, sì, col Formula 1 con la velocità è una cosa che conosco bene, però come nelle corse non è sempre la velocità che conta, anche il controllo, e spesso il controllo è molto più importante. Il pilota in momenti di crisi ha gente esperta che è lì per aiutare, basta chiedere, non è da solo, quindi c'è sempre uno con cui si può parlare, si può andare avanti, aiutare, capire. E la stessa cosa con questo problema, è importante non avere la vergogna di parlarne col partner, nella coppia, con gente professionale, quindi di andare avanti e che loro possono spiegare cosa fare quindi, per risolvere questo problema. Jacques, possiamo dire quindi che se si chiede aiuto si vince? Sempre. Non c'è mai niente di sbagliato a chiedere aiuto, è sempre la cosa giusta da fare, perché se no te la tieni dentro da solo per tanti anni e poi cominci a vivere con quello e pensi che è normale, però è un peso che porti tutta la vita e che può fare tanti danni, quindi è importante non aver vergogna e chiedere aiuto e parlarne. Grazie a Jacques Villeneuve per essere stato con noi, buonissima giornata Jacques. Grazie. 800 24 00 24, questo è un numero verde, utilizzatelo oggi per tirare fuori quella sensazione di disagio che avvertite dentro di voi, proprio perché non siete mai riusciti magari a chiedere aiuto, a chiedere un'informazione, chiedere ad un esperto se il problema di cui soffrite, il problema che mina la felicità in amore della vostra coppia, può essere curato e affrontato e in che modo. Perché non farlo ora? Essere e benessere. Quello che ci sfibra proprio come la barba della pannocchia sono le cose che il maschio dice in quelle situazioni per scusarsi. E che naturalmente non possiamo ripetere. Noi invece le diciamo. Una fra tutte, scusa, è perché mi piaci troppo. Certo, se invece ti facevo cagare stavamo qua delle mezz'ore, capisci? Altra scusa. Guarda, se possiamo... Ho avuto uno sbalzo di pressione, come i contatori. Una arriva dopo l'estate. È colpa del sellino, vado in bici. E togli l'amore, chissà che magari. Oppure, non so, sono i jeans troppo stretti, infiammano. Se fosse colpa dei jeans, sai, la Durex avrebbe già fatto una linea di jeans. Ritardanti per lui e stimolanti per lei. Allora direi, basta scuse, inutile trovare scuse. Meglio parlare e cercare di capire se il problema di cui soffre il nostro partner è da quali cause è motivato e soprattutto se può e se ci sono delle soluzioni. Ci affidiamo al professor Iannini e alla professoressa Bertozzi. Professor Iannini. Ma innanzitutto l'identikit di questo paziente è di una faccia con tre volti, fondamentalmente. Lo stesso paziente ha tre volti, il primo è quello della, come diceva quella grande sessuologa che è la Littizzetto, che ha delle intuizioni assolutamente geniali, che è appunto il tema del tempo, il fatto di non appunto riuscire a controllare il proprio piacere entro un giusto tempo, rispettando i tempi della partner, i tempi della donna. La seconda faccia è quella proprio del controllo, cioè la sensazione di non avere controllo appunto sul proprio piacere. E la terza faccia è quella appunto dello stress, ma non in questo caso lo stress che subiamo, ma è lo stress che induciamo, cioè lo stress che viene viene prodotto dalla condizione di eiaculazione precoce oppure di disfunzione erettile. In tutta questa situazione così di tre facce c'è questa dimensione che avete più volte citato, ma che è quella più evidente, della mancanza di capacità di ricercare aiuto. Perché c'è questa mancanza? Beh, c'è una, come dire, qualche cosa che viene da lontano, la convinzione che questi problemi siano esclusivamente di ordine psicologico ha tenuto molto lontani i pazienti dai medici, ed è stato un peccato, perché in realtà la medicina negli ultimi anni ha fatto dei passi da gigante proprio sul tema della medicina sessuale. Abbiamo prodotto tantissimo dal punto di vista scientifico, abbiamo delle idee che ci permettono di dire sì, la componente psicologica è assolutamente fondamentale, ma c'è anche un corpo che serve per far l'amore, che si può ammalare, e sapendo questo siamo diventati capaci di proporre delle risposte che prima non avevamo. In altre parole, per essere molto semplice, la gente non va dal medico perché crede che il proprio problema sia esclusivamente di tipo psicologico e che il medico non abbia delle risposte. Non è così, non è così. Esattamente il contrario, e il medico sa anche le cause che stanno dietro a quel problema. Professoressa Bertozzi, ascoltavo con attenzione il professor Iannini, che ha centrato in pieno il problema. È forte questo professor Iannini, è molto mi forte, piace molto. Anche a me. Perché il nostro concetto ha tre facce, perché siamo fatti di anima, siamo fatti di psiche, ma siamo fatti di corpo. Quindi il messaggio è che moltissime patologie organiche sostengono l'eiaculazione precoce, così come sostengono il deficit erettivo. Quali sono? Per esempio la patologia prostatica, le prostatovescicoliti, che sono frequentissime nel maschio anche per delle caratteristiche anatomiche particolari. Mm-hmm. La prostata è appoggiata all'ampulla rettale, dove c'è sempre materiale batterico, e quindi per via linfatica può arrivare anche a livello prostatico. Prostatovescicoliti che spesso configurano quadri di malattie sessualmente trasmesse, ecco l'importanza di questo messaggio. Quando il nostro paziente ha un'infezione a livello prostatico, si determinano delle situazioni particolari, fra cui una carenza di una molecola specifica che serve proprio per una eiaculazione controllata, e quindi il paziente eiacula in maniera incontrollabile, appunto, rapida, esageratamente rapida. Ecco che allora una visita, come diceva il professore, dal medico può risolvere tranquillamente il problema. Anche perché abbiamo a disposizione tutta una serie di farmaci che possono, per questo dicevo a Jacques Villeneuve, se si chiede aiuto si vince. Assolutamente. Ma qua c'è, ecco, il problema è che spesso non ne parliamo, a volte sono le donne che invitano il proprio partner a parlare con il medico, ma non sempre sono ascoltate. E poi c'è questo anche confusione, qual è il medico di riferimento? La dottoressa Cecchini ha dei dati a riguardo, perché con le ricerche sono proprio andate ad indagare anche questo aspetto, questa difficoltà, trovare lo specialista di riferimento, qual è? Sì, abbiamo visto come solo un quarto dei nostri intervistati si è rivolto a un medico, però da parte degli altri non c'è una chiusura in generale a rivolgersi al medico, quindi alla domanda ti rivolgeresti a un medico, in realtà metà ci dice sì, potrei rivolgermi a un medico, ma a quale medico? Il primo accesso, o comunque la prima idea che viene in mente, è il medico di famiglia, che in qualche modo è una figura presente, almeno così nell'immaginario di tutti noi, come riferimento a cui rivolgersi. Poi di fatto vediamo come lo specialista, l'urologo o l'andrologo diventano dei riferimenti successivamente, quando i pazienti poi sono in cura e sono seguiti dal medico. Quindi io credo che anche capire da chi andare, a chi rivolgersi, chi può dare delle risposte giuste, sia importante comunicarlo, informare le persone su questo. Andiamo a Bergamo, c'è Roberta, 800240024, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Roberta, eccomi qua. Ecco, io volevo sapere un'informazione, cioè io da quando sono entrata in menopausa ho avuto un calo del desiderio, cioè per me non avrei mai rapporti. Chi mi può aiutare, quale tipo di medico e cosa posso fare? Professor Iannini, ecco una domanda molto importante, che è quella di Roberta, perché il calo del desiderio noi donne lo spieghiamo sempre come un problema, o lo associamo a un problema ormonale. Sì, e lo è in effetti, beh, c'è questa doppia aspetto della femminilità che è la donna e la creatura più ormonodipendente che ci sia, basta pensare al ciclo mestruale, basta pensare appunto alla stessa menopausa, ma è anche la più relazionale dipendente, cioè dove c'è una dimensione di vita, di relazione che influenza enormemente la dimensione del desiderio. Verrebbe da chiedersi che cosa succederebbe se ci fosse George Clooney, per esempio, ad animare il desiderio Roberta, di una figura in menopausa. Roberta, dica la verità. Se ci fosse George Clooney? No, no. Guardi, Johnny Depp? Penso di no, perché Jacques Villeneuve? Sono innamorata. Non so, mi dica una volta sì, però. Cioè, io ne ho tagliate, no, tre, anche la dottoressa Cecchini qua, a noi andrebbe, no, tutte e tre. Roberta, quindi la domanda sua, torniamo seri, è da chi mi rivolgo? Ecco, professor Iannini, ginecologo? Sicuramente ginecologo e l'endocrinologo, perché appunto abbiamo citato giustamente gli ormoni e quindi sono queste le figure di riferimento che con un'attenzione che deve essere migliorata, qui sto parlando ai miei colleghi, non tanto ai pazienti, ma una maggiore attenzione da parte dei medici, da parte degli specialisti per la dimensione del desiderio, per la dimensione sessuale ci sta tutta, ci deve essere, e molto spesso pensiamo più a aspetti che sono così legati alla salute generale e ci dimentichiamo quello che ha detto l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che la salute sessuale è una parte imprescindibile della salute generale, quindi non occuparsi del problema che la signora ha appena sollevato, del desiderio, a parte le battute, significa, posso dirlo, fare cattiva medicina, una medicina incompleta. Dottoressa Cecchini? Sì, solo una cosa, abbiamo fatto una grande ricerca sulle donne sul desiderio sessuale femminile ed è emersa una correlazione strettissima fra quella che è la soddisfazione sessuale e la soddisfazione per la vita, cioè la felicità. Quello che è venuto fuori da questa ricerca è quanto una buona relazione sessuale e un buon desiderio sessuale sia assolutamente correlato con la felicità. Felici in amore, l'hashtag di oggi, ma è un invito e un augurio. Essere e benessere. Loro hanno avuto quello che io non ho potuto avere mai. Mai, mai, hai capito benissimo, Edoardo, mai. Ma Antonio, com'è possibile? Mai con chi mi piacesse. Con una donna che io amassi veramente. Ma allora con qualcuna no, ma con le altre sì. Con tutte le altre, ti devo confessare che anch'io, sì, sì, anch'io qualche volta, non ti dico sempre, non ti dico nemmeno spesso, ma qualche volta, cosa vuoi, chi sta sempre a cavallo dovrà pur cadere di tanto in tanto. Dal Bell'Antonio, professoressa Bertozzi. Noi sappiamo, lei ha anticipato, che la disfunzione erettile può essere un campanello d'allarme delle malattie cardiovascolari, quindi noi risottolineiamo un concetto che abbiamo subito mandato in apertura, è che fare bene l'amore, fare l'amore è un segnale di salute. Esatto, perché l'attività e diciamo la salute sessuale, intendo sia quella, la capacità di avere un buon rapporto, quindi di far bene all'amore, di avere un'ottimale erezione, e anche lo stato di fertilità, perché tutte e due sono, direi, proprio una cartina tornasole della salute dell'organismo, tant'è che fare un inquadramento clinico del paziente, della coppia che viene da noi, e dico clinico perché troppo spesso abbiamo peccato in una visione iperspecialistica, invece il maschio e la coppia vanno inquadrati in una visione più clinica. Dicevo, quindi fare un inquadramento clinico della nostra coppia, del nostro paziente che viene a visita, vuol dire fare una ricognizione dello stato di salute. Per esempio, il paziente che viene con un deficit erettivo può avere una patologia del tessuto che riveste i corpi cavernosi del pene, dell'endotelio, è quasi sempre così, che dicevo è lo stesso tessuto che per esempio permette una buona funzionalità cardiaca, è lo stesso tessuto implicato nell'ipertensione, è lo stesso tessuto implicato in tantissime patologie cardiovascolari, ma può anche presentare una carenza di testosterone. Qui vorrei richiamare l'attenzione su una cosa: un tempo si pensava che il testosterone diminuisse soltanto nel soggetto durante l'invecchiamento, non è così. Purtroppo anche moltissimi pazienti giovani hanno problemi di calo del testosterone, cui fa seguito anche il calo proprio dell'erezione per la disfunzionalità del tessuto di cui parlavo, che ha necessità del testosterone. E perché questo? Per esempio per il sovrappeso, che comporta una sintesi di sostanze particolari, comporta la cosiddetta sindrome metabolica, che oggi va molto di moda, che determina uno squilibrio ormonale, oppure per l'utilizzo purtroppo delle cosiddette droghe leggere, purtroppo indicate come droghe leggere, perché in realtà non è così. Noi vediamo moltissimi soggetti giovani, anche al di sotto dei 30 anni, con deficit erettivo e con eiaculazione precoce, per l'utilizzo del cosiddetto spinello o della cocaina, che vengono vissute come droghe leggere, mentre hanno determinano un'alterazione sulla sessualità assoluta. Praticamente non esiste addiction senza una patologia andrologica correlata. Vorrei dare, dopo queste indicazioni preziose dei nostri ospiti, la parola ai nostri ascoltatori. Remo, che ci chiama da Milano, 800 24 00 24, buongiorno e benvenuto. Poi abbiamo Angela da Catania e Roberto dalla provincia di Verbania. Remo. Pronto, buongiorno. Volevo ringraziarvi per questa trasmissione, anche perché io sono una persona abbastanza anziana, però ho sempre avuto questo problema e tramite i dottori non sono mai riuscito a risolverlo. E poi perché le donne molte volte non ci danno quella mano per poter, perché sembrava che io andassi in giro a cercare chissà che cosa, però io a 70 anni ho ancora l'eiaculazione precoce. Quindi Remo ci racconta una storia, professor Iannini, non ha avuto il sostegno né dalle partner né dai medici, speriamo che si svolti. Sta cambiando, come dicevo, la percezione anche dei medici, la disponibilità di nuovi farmaci sicuramente farà la differenza. Abbiamo a disposizione una molecola nuova che permette l'aumento della quantità di serotonina, che è quella sostanza che serve all'eiaculatore precoce. Ecco, questa è diciamo la notizia, che è stata approvata dalle autorità italiane e europee, così come in tanti paesi del mondo, e questa sicuramente costituirà una soluzione assolutamente mirata, centrata, perché aumenta la serotonina nel punto in cui è necessario, cioè in realtà nella sinapsi che controlla il meccanismo eiaculatorio. Quindi io sono abbastanza fiducioso da questo punto di vista per quello che riguarda le nuove risposte terapeutiche. Angela da Catania, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo parlare del fatto che molti uomini, diciamo in linea generale, rifiutano l'assunzione di medicinali come se loro non avessero un problema. E speriamo che la mentalità cambi. Io sono un insegnante e spero che quando si faccia educazione sessuale si parli di queste cose anche ai ragazzi. E, per quanto riguarda l'unione di coppia, che parte anche dall'intesa sessuale, io sono d'accordissimo, perché proprio appartenevo a una coppia silente su questo problema ed è finita con una separazione, perché non abbiamo voluto affrontare il problema bene, abbiamo pensato che il problema fosse solo di tipo sessuale e invece si è diventato nel nostro rapporto di coppia. Grazie Angela per questa sua testimonianza. Dottoressa Cecchini, a proposito di coppia e di vissuto delle donne di fronte a un problema, di fronte al silenzio, avete delle ricerche con dei dati interessanti. Sì, dallo studio emerge effettivamente come si crei un muro nella coppia, quindi un silenzio ed un muro reale. È vero che la maggior parte degli uomini sono dispiaciuti, però c'è anche tanta frustrazione, rabbia, vergogna, il che spiega perché non si parli dentro la coppia, non si parli con un medico, non ci si rivolga agli altri. Ma le donne come si sentono? Il vissuto più forte raccontato dalle donne riguarda l'insoddisfazione e la delusione. Le donne sono insoddisfatte e deluse, quindi questo spiega proprio questa chiusura e questo silenzio. Ma anche un altro dato interessante che differenzia un pochino il vissuto delle donne, delle partner di uomini che soffrono di eiaculazione precoce rispetto a chi soffre di disfunzione erettile, riguarda il vissuto di come si sente la donna nella coppia rispetto all'uomo. In questo caso, cioè nel caso dell'eiaculazione precoce, le donne si sentono poco importanti, poco amate, come poco considerate, come se l'uomo fosse troppo concentrato su di sé, sul suo problema, e perdesse di vista la relazione, la coppia, lo stare insieme, che poi crea certo. evidentemente tutto quello che è la soddisfazione all'interno della coppia. Quindi questo tema del non essere amate, del non essere considerate, dell'essere usate anche quasi, quindi una rabbia, una frustrazione grande. Dall'altra parte invece la disfunzione erettile è più la sensazione di non essere sufficientemente attraenti per eccitare il proprio uomo, per attrarre il proprio uomo, quindi cambia un pochino il vissuto. Roberto dalla provincia di Verbania, a cui chiedo gentilmente di essere rapido per dare la parola poi a un esperto. Grazie Roberto. Buongiorno. Buongiorno a lei. Circa 10 anni fa mi è stata diagnosticata il DPP. Ho fatto una cura per sintesi. Sai che no, Roberto, mi dispiace, ma noi non la sentiamo bene. Magari non so se c'è tempo, proveremo a richiamarla. Professor Iannini, vogliamo chiudere questa nostra trasmissione con un messaggio rivolto alla coppia? Sì, lo facciamo volentieri, anche perché la telefonata di prima della signora è assolutamente affascinante, perché lei ha detto una cosa incredibile: a questi uomini che non si curano abbastanza, che non accettano le medicine, è verissimo, ma devo dire, come faccio di mestiere l'andrologo, quindi per contratto devo difendere in qualche modo anche la categoria dei maschi, devo dire che molte volte sono invece anche loro le donne che fanno resistenza alla possibilità di approcciare dal punto di vista farmacologico un disturbo sessuale. Mi viene in mente la frase caratteristica della signora che mi porta il marito praticamente per le orecchie e mi dice: me lo metta a posto ma non gli dia medicine. E quindi questa sorta di contraddizione in qualche modo che è ancora presente. Vede, io credo che tutto sommato il tema della felicità sessuale che abbiamo discusso oggi passa attraverso un tema di soluzione di una dimensione culturale che è in divenire, cioè noi dobbiamo cambiare sostanzialmente il modo di pensare al sesso, non più come qualche cosa di misterioso da tacere, di difficile da risolvere, ma semplicemente come una funzione, ovviamente con una componente relazionale, sentimentale, emotiva formidabile, ma una funzione che è prima di tutto una funzione biologica e che come tutte le funzioni biologiche è suscettibile di diagnosi, di terapia, di cura, insomma, ecco tutto qua. Insomma, noi speriamo che con questa puntata di aver aiutato le persone a riflettere, a pensare, a chiedere aiuto e soprattutto a rassicurarsi. C'è una soluzione. Grazie alla professoressa Bertozzi per essere stata con noi, al professor Iannini, alla dottoressa Isa Cecchini, Carmelo Lauricelle in regia, alla parte tecnica, Laura Fagin in redazione. Per oggi è tutto. Come sempre vi rimando anche a leggere il nostro Daily Lab, l'appuntamento quotidiano con i consigli dei nostri esperti. Buonissima giornata da Nicoletta, domani. Essere e benessere.